Allora, prima di cominciare la storia, Before we begin the story, ecco le parole e le espressioni nuove che aiutano a capire i titoli. Here are the new words and phrases that will help you understand the headings.